Altre apparizioni di Maria Rosa Mistica, 1966-1981. I tempi si fanno scuri e sconvolgenti. 5 agosto 1972. Oh, l'umanità corre verso una grande rovina. Le anime si perdono. Oh, la Chiesa del mio Divin Figlio Gesù Cristo. Pregate, figli, fate penitenza. È il richiamo del cuore della Madre del Signore. Montichiari, 25 luglio 1971. Le preghiere, i sacrifici, fatti da un'anima, non vanno mai perduti. L'amore del mio Divin Figlio Gesù Cristo le valorizza, concedendo le sue grazie. Montichiari, 25 aprile 1968. Brescia, 15 novembre 1966. L'Eucarestia. Ci sono tanti uomini, anche dei cristiani, che vorrebbero ridurla solo ad un simbolo. Visita della Madonna nella cameretta di Pierina. Desidero che tu personalmente porti i messaggi che ti ho già manifestato al padre della Chiesa di Letto, mio figlio, Papa Paolo, e aggiunge anche il luogo di Montichiari per trasformarlo in una sorgente di grazie. Mi ha inviato il giorno della festa del corpo del Signore per richiamare le anime all'amore della Santa Eucaristia, perché ci sono tanti uomini, anche dei cristiani, che vorrebbero ridurla solo ad un simbolo. Sono intervenuta per chiedere l'Unione Mondiale della Comunione Riparatrice il 13 ottobre di ogni anno. Con questi messaggi ho portato luce sui santi sacramenti, specie l'Eucaristia, e su verità già rivelate. Si dia ascolto al mio grido d'amore materno per la salvezza delle anime. Il pericolo del castigo è l'ateismo che sta cercando di sconvolgere l'umanità. Il mio amore materno lo impedirà. Preghiera, penitenza, per salvare le anime, amare il Signore. La promessa non verrà mai meno. Il Padre nostro, l'Ave Maria, il Gloria Padre, la frequenza ai Santi Sacramenti e la recita del Santo Rosario. Amatevi, figli, e la pace sarà sopra il mondo. Brescia, 30 settembre 1967. L'ateismo. Siate forti combattenti contro la grande nube nera dell'ateismo. Visita della Madonna nella cameretta di Pierina. Facendo riferimento ai superiori della veggente, la Madonna un po' triste disse: figli diletti, figli responsabili, non lasciate l'intervento della mia grazia in un profondo letargo. Non attaccate il mio grande amore che ho per salvare l'umanità. Ma siate forti combattenti contro la grande nube nera dell'ateismo. Ecco perché intervengo. Voglio salvare tutti gli uomini. Montichiari, 25 marzo 1968. Il mondo va in rovina per la sua ostinazione nel peccato. A partire da questo anno, Pierina non alloggerà più a Brescia, presso il convento delle Suore del Giglio, ma a Montichiari, in una casetta provvisoria, nell'attesa di ricevere quella definitiva, fatta ricostruire da alcuni benefattori. Visita della Madonna nella cameretta di Pierina. Continua sempre a fare preghiera. È un mezzo tanto sicuro per portare le anime a Gesù, mio Divin Figlio. Prega e fa sacrifici, perché il mondo va in rovina per la sua ostinazione nel peccato. Si rifiuta di riconoscere, amare il Signore. Questo fa soffrire tanto il mio cuore e quello del mio Divin Figlio Gesù Cristo. Intervengo sempre con amore materno e misericordioso per salvare tutti i miei figli che io amo. Amo tanto e do tutti i mezzi di grazia per portarli in cielo. Il castigo non è sempre luce del mio cuore. Io vengo per portare amore, pace, concordia nelle anime, per aiutare e salvare l'umanità. La via sicura è quella del vero amore al Signore. Se si darà ascolto al mio grido materno, ci sarà pace e non terrore. Ho manifestato sempre dei desideri, non dei comandi. Siano fatti conoscere i desideri del mio cuore a tutti i figli. 18 ottobre 1968, buio nella chiesa. Mai come ora si è trovata la chiesa nello spaventoso buio apocalittico. Figlia, sii coraggiosa nel mio amore. Nulla ti devi far temere. Nulla. Io sono la Madre Celeste e sono sempre con te e con i figli che mi amano. A loro do le mie grazie e con tanto amore presento al Signore le anime. In questo tempo di richiamo dei figli, che fa il mio cuore materno, alla fede, alla preghiera, alla frequenza dei santi sacramenti, e particolarmente all'amore alla Santa Eucaristia. Desidero portare al mio Divin Figlio Gesù Cristo le anime di tutto il mondo che sta andando verso la rovina, ma particolarmente l'amore mio è rivolto alla Chiesa. Mai come ora si è trovata la Chiesa nello spaventoso buio apocalittico. Con i figli che ancora amano il Signore e ascoltano il richiamo dell'amor mio, otterrò ancora misericordia dando la pace, la fede all'umanità. Sono passati 45 anni, ma questo messaggio, profezia, illumina questi nostri anni. Montichiari, 15 maggio 1969. L'ubbidienza. L'ubbidienza è umiltà. Dio è amore. Io sono stata mandata dal Signore non per dare dei comandi, ma per manifestare i Suoi desideri. O quanto lo desidera che siano adempiuti dai figli. Figlia, l'ubbidienza è umiltà, tante volte è sacrificio. Ma Dio nostro Signore sa poi dare all'anima pace e docilità, che è il vero amore di Lui. Vedi, figlia mia, è tempo di richiamo. L'ubbidienza è pace che viene dal Signore. Il contrario è discordia e rovina delle anime. Figlia, prega e dammi tanto amore da portare al Signore. Montichiari, 27 luglio 1969. Araldi della fede. Occorrono anime generose. Visita della Madonna nella casa di Pierina. È tempo di preghiera, è tempo di richiamo. Oh, quanti figli non amano più il Signore. Occorrono anime generose che si slanciano al mio appello d'amore. Forti, coraggiosi, araldi nella fede. Io sono sempre vicino a questi figli che lavorano con ardore per salvare dalle tenebre. Si vuole oscurare il cielo e l'amore del Signore. In questo tempo di nero ateismo che avanza spaventosamente, occorrono dei forti araldi per far fronte a questo pericolo. È giunta l'ora del richiamo. Montichiari, 19 maggio 1970. La medaglia. Desidero sia fatta coniare una medaglia. Maria Santissima apparve nel suo candido manto, il cuore ornato con tre rose, bianca, rossa e giallo oro. E al braccio destro un grande rosario che terminava con una medaglia invece della croce. Stendendo ambedue le braccia, la Santissima Vergine mostrò una medaglia rotonda e dorata sulle due palme delle mani. Su quella della mano destra Pierina vide incisa la figura di Maria in piedi, in cima alla scala, con le mani giunte e con il capo, come sempre, chinato in avanti sulla sinistra, circondato di rose. Molte rose erano pure ai suoi piedi, sparse per la scala. Sull'orlo della medaglia della mano destra vi era scritto Rosa, su quello della sinistra Mistica. Quindi a tergo di una delle medaglie Pierina osservò distintamente una bella chiesa a cupola con tre grandi porte. Sopra vi era la scritta Maria, Madre della Chiesa. A questo punto la Madre Celeste prese a parlare e disse: desidero sia fatta coniare una medaglia come questa e con le due iscrizioni. Il Signore mi ha inviato in questo luogo da Lui prescelto per portare il dono del suo amore, il dono della fonte delle grazie e quello della medaglia del mio amore materno. Oggi sono qui per far conoscere questa medaglia, dono dell'amore universale, e che sarà portata dai figli sul loro cuore ovunque andranno. Prometto a questi miei figli la mia protezione e la mia grazia materna. Questa è l'ora in cui si cerca di annientare il più possibile la venerazione che mi si deve. La medaglia del mio amore materno farà sì che i figli miei mi abbiano sempre con sé. Io sono la madre del Signore, la madre dell'umanità. Vi sarà il trionfo dell'amore universale, la benedizione del Signore, assieme al mio amore, accompagneranno sempre tutti i figli che ricorreranno a me. Montichiari, 14 febbraio 1970, 17 gennaio e 25 luglio 1971, 5 agosto 1972. Il Santo Rosario. Visita della Madonna nella casa di Pierina. Ecco, figli, la corona del Santo Rosario. Chi la reciterà avrà da me tante grazie. È una grande unione col mio cuore di Madre Celeste, che glorifica il Signore, Re del Cielo e dell'Universo. Riferisci a tutti quelli che mi amino per riparare la moltitudine delle offese fatte al mio Divin Figlio Gesù Cristo. Amatevi fra di voi, o figli. La carità è amore. Offrire i propri sacrifici è amore. La preghiera è amore che sale al cielo. 14 febbraio 1970. Un rosario recitato con devozione è un richiamo per qualsiasi intercessione, è contemplazione dei misteri della salvezza. Il Padre nostro è la preghiera di unione, la preghiera del Signore, la preghiera di glorificazione della Santissima Trinità con la recita del Gloria Patri. Dì ai miei figli di recitare il Santo Rosario, anello di fede, di luce e legame di unione, di gloria, di intercessione. Prega, prega, o figlia, e fa pregare. Tanti figli miei vivono nelle tenebre. Non si vuole più il Signore Dio. La Chiesa del mio Divin Figlio, in quale lotta si trova? Perciò io stendo il manto del mio amore sopra l'umanità, perché c'è urgenza di preghiera d'amore e di preghiera di espiazione. L'umanità corre verso la sua grande rovina. Quante anime perdute! Povera Chiesa del mio Divino Figlio Gesù Cristo, pregate, o figli, fate penitenza. Questo è il mio accorato richiamo, l'avvertimento della Madre del Signore. Figlia mia, questo è il tempo in cui bisogna unirsi in preghiera e in amore attorno al Signore. Egli è abbandonato e oltraggiato da tanti suoi figli. Noi vogliamo anime fedeli e vigorose, pronte a testimoniare e a dimostrare che il mio Divin Figlio si è immolato sulla croce e ciascuno comprenda quanto e come il cuore di Gesù sia pieno di amore e di misericordia. Io sono venuta qui per parlare dell'amore che si deve al Signore, per richiamare le anime a questo amore, a Dio e a quello verso il prossimo, Questo è il mio appello, questo è il messaggio della Madre del Signore. 19 gennaio 1970. Pierina, questo è il luogo di preghiera. Vi invito ancora al Santo Rosario, che è tanto ben accetto al Signore. Sappiano tutti i miei figli che hanno aderito al mio desiderio, con la comunione riparatrice, che io li ricambierò con grande abbondanza di grazie. E a quelli che vengono alla fonte, mi onorano con la loro devozione, di loro che recitano il Santo Rosario. In questo luogo i cuori uniti palpitano di un unico slancio d'amore fra cielo e terra. Quante grazie verranno concesse? Io vedo e benedico tutti e tutto. 25 luglio 1970. La Santissima Vergine, con l'aspetto assai addolorato, disse: «Oh, com'è triste vedere i miei figli che si allontanano da Dio loro Padre. Io intercedo per portare all'umanità tutto il mio amore col richiamo della bontà. Il mio cuore è quello di una madre addolorata che dice: «Figli miei, amate il Signore, smettete di offenderlo così crudelmente. Figlia mia, non tacere, ma parla di questo invito alla preghiera, affinché i figli ritornino alla fede e all'amore verso Dio. I tempi si vanno facendo scuri, sconvolgenti, pieni di terrore, ma se pregate e fate penitenza, il mio cuore di madre otterrà ancora dal Signore il ritorno della luce, dell'amore, della pace sopra il mondo intero, poiché la misericordia del Signore non manca mai ed è sempre operante con la redenzione. Ora è giunto il tempo di agire. Dato che si vuole denigrare perfino l'opera di Dio e disconoscere che Egli mi prescelse per sua madre. Sì, io sono la madre del Signore e di tutta l'umanità. Amatevi l'un l'altro, figlioli, e la pace trionferà. 5 agosto 1972. Montichiari, 22 luglio 1973. Significato di Rosa Mistica. Rosa Mistica, madre della Chiesa. Durante questa visita la veggente osò chiedere alla Celeste Madre perché mai si fosse manifestata come Rosa Mistica e quale significato avesse tale appellativo. Rispose la Santissima Vergine: Rosa Mistica non ha in sé nulla di nuovo. Rosa Mistica fu chiamata in quell'istante in cui il mio divino figlio Gesù si è fatto uomo. In Rosa Mistica è simboleggiato il fiat della redenzione e il fiat della mia collaborazione. Io sono l'Immacolata Concezione, la Madre Gesù Signore, la Madre della Grazia, la Madre del Corpo Mistico, la Chiesa. Ecco perché il mio Divino Figlio mi invitò a venire a Montichiari nel 1947, ed io allora venni, posando i miei piedi al centro del Duomo, in mezzo a tanti miei figli, e ciò per dimostrare che sono la Madre del Corpo Mistico, la Chiesa. Fu quello, allora, soltanto un avvertimento e un invito alla preghiera rivolto a tutti i figli. Penitenza, espiazione. Dissi in quei giorni, poiché stavano per venire tempi oscuri, pieni di ateismo e di affievolimento dell'amore verso il Signore e verso questa vostra madre. Mentre la Celeste Madre così parlava, i suoi occhi erano pieni di lacrime. Dopo aggiunse: la grazia del Signore e la sua misericordia infinita per la Chiesa faranno rifiorire ancora Rosa Mistica e si darà ascolto a questo materno invito. Montichiari sarà il luogo dal quale la mistica luce si radierà su tutto il mondo. Sì, tutto questo si avvererà. Montichiari, 29 giugno 1974. Santissimi Pietro e Paolo. L'angelo custode. Felice l'uomo che si affida alla protezione del suo angelo custode. Felice l'uomo che si affida alla protezione del suo angelo custode ed ascolta le sue ispirazioni, perché l'angelo custode ha sempre una grande cura per l'anima affidatagli. Quando poi l'anima consegue la felicità eterna come premio meritato, egli viene a prenderla. Con lui e i cori degli angeli essa può aggiungersi nel gaudio celeste a Dio Padre Onnipotente. A queste parole il manto della Santissima Vergine improvvisamente si aprì e divenne infinitamente immenso come l'universo e come mai l'avevo visto. Vidi pure migliaia e migliaia di angeli santi, i quali distesero e formarono questo. Erano piccoli, grandi e straordinariamente forti e potenti angeli. Portavano meravigliosi vestiti, corone, cerchi attorno alla fronte. Essi stesero ed allargarono il manto di Maria sopra l'universo smisurato. Sotto di loro vidi, vicinissimo, gli angeli santi, una folla su una grande pianura. Tra questi vi erano vescovi, molti sacerdoti, religiosi e molti uomini, donne e bambini. Potei riconoscere distintamente alcuni di essi, soprattutto un vescovo e parecchi sacerdoti e conoscenti, ma gli altri in gran parte mi erano sconosciuti. Tutti insieme, angeli e uomini, cantavano in coro. Santo, santo, santo è il Signore. Amore, onore e gloria a Lui per tutta l'eternità. Maria, Madre di Dio, Madre di Grazia, sii anche tu sempre glorificata dal cielo e dalla terra. Montichiari, 8 settembre 1974. La costruzione della Chiesa. Il Signore, mio Divino Figlio Gesù Cristo, desidera che la Chiesa venga costruita così. Ad un tratto Pirina vide una chiesa con 5 cupole rotonde. In quella di mezzo spiccava verso l'alto una colonnetta a forma di raggiera. Allora Pirina domandò alla Vergine Maria il significato di quella chiesa e questa rispose amabilmente: «Il Signore, mio Divino Figlio Gesù Cristo, per il dono che ha fatto all'umanità di inviarmi nel luogo delle fontanelle, desidera che la chiesa venga costruita così». Il significato: abbraccia i continenti della terra. Invocate specialmente la protezione del Santo Arcangelo Michele affinché protegga la Chiesa contro tutti i minacciosi agguati e la difenda. Difatti mai la Chiesa si è trovata in tanto pericolo come oggi. Io intervengo continuamente per lei. Anche da questo piccolo luogo si diffonderà la luce. Montichiari, 23 novembre 1975. Le statue di Rosa Mistica. Il mondo doveva essere colpito da un grande castigo. Figlia, va a annunciare a tutti i miei figli il mio amore per loro. Di loro che il mio Divino Figlio Gesù Cristo mi dà le grazie da donare a tutti loro, poiché a sua madre egli concede tutto. In verità io sono la madre dell'umanità. Pierina, i sacrifici, le preghiere che da tante persone sono state offerte al Signore hanno ottenuto grandi grazie. Il mondo doveva essere colpito da un grande castigo per il suo indurimento nel peccato. Però la sua grande ed infinita misericordia ha trionfato ancora una volta. Miei buoni figli, pregate e fate i sacrifici per tutti. Con queste le anime vengono salvate. Madonna cara, vi prego, vorreste dirmi qualcosa circa le statue della Madonna Pellegrina che furono portate a Roma? Rispose la Santissima Vergine. Davanti a queste statue si è pregato, ed io sono adesso particolarmente presente nella città del mio amato figlio, Papa Paolo VI, il padre della Chiesa. In verità, ovunque io sto mediante quelle statue, porto con me le grazie del Signore e l'amore di questo cuore materno. Io porto la luce dentro i cuori dove ancora ci sono le tenebre, perché essi comprendono l'amore che io ho rivelato a Montichiari. Collaborate col mio amore, donate col mio amore, sacrificatevi col mio amore. Così voi sarete un giorno uniti a me per sempre. Quale grazia sarebbe più grande di questa? Vivere completamente con me? Ciò non vale solo per te, Pierina, ma allo stesso modo anche per tutti i miei figli che mi amano. Montichiari, 13 febbraio 1976. Le discese di Maria sulla terra. Senza il mio materno e amoroso intervento, sarebbe divenuto freddo e arido verso il Signore. Vengo ancora una volta per dirti di propagare ancora più il mio messaggio d'amore. Da secoli discendo in continuazione su tanti luoghi della terra. Se dopo la mia assunzione in cielo non fossi discesa continuamente sulla terra per accogliere attorno a me i miei figli gran parte del mondo, senza il mio materno amoroso intervento, sarebbe divenuto freddo e arido verso il Signore. I miei figli hanno bisogno di questo mio intimo amore materno, poiché nella loro fragilità si allontanano così facilmente dal Signore, il nostro onnipotente Dio e Padre. Questo è il motivo della mia venuta. Ogni volta che io discendo su questa terra per portare il messaggio di amore, innumerevoli cori di angeli movimentano il cielo e mi stringono intorno come una grande corona. D'altra parte, però, tanti dei miei figli sulla terra non accolgono e rimangono sordi al nostro invito di tornare ad amare di più il Signore. Pierina, ripeti continuamente ai miei figli, particolarmente amati i sacerdoti, che amino. Di loro che annunciano ovunque, in ogni direzione, questo invito della Madre del Signore. Che essi non lasciano andare perduto quello che in tanti secoli ho già fatto e che ancora faccio per salvare i miei figli così in pericolo. Il Signore deve essere amato, lodato e glorificato con tutta la forza della fede e dell'amore. Miei figli, amate il Signore e questa sua Madre. Amatevi tutti vicendevolmente di un sincero amore fraterno. Andate alla Santa Messa, radunatevi nelle chiese in preghiera, accostatevi fervorosamente ai Santi Sacramenti per ottenere la grazia della fedeltà e dare al mondo l'esempio di veri cristiani. Fate tutto ciò se volete salvarvi: preghiera, sacrificio, penitenza. Montichiari, 20 aprile 1976. La croce in mezzo al campo. In mezzo al campo si è messa una grande croce. In questa apparizione pierina vide ad un tratto una grande croce di luce e chiese alla Vergine Santissima: perché questa croce? La Madonna rispose: in mezzo al campo, ove si trova la piccola cappella, si è messa una grande croce. Sia essa per tutti i figli che vengono a pregare, per chiedere grazie, richiamo di luce della fede, di carità e di speranza. Perché da questo luogo, unita al mio divino Figlio Gesù Cristo, il mio cuore e le mie braccia sono sempre aperte per dare grazie, per salvare specialmente i peccatori. Venite, figli, qui ho aperto la fonte del perdono e dell'amore. E voi, figli prediletti, che soffrite e lavorate per questo luogo, abbiate la ricompensa del mio amore materno. Questo è il tempo, l'ora in cui desidero spandere sopra tutta l'umanità il mio amore e la misericordia del Signore. In seguito a questa richiesta di Maria, una grande croce fu piantata nella spianata prospiciente la cappella o edicola. Ciò fu eseguito per opera del padre Taddeo Laus e di un pellegrinaggio tedesco. Montichiari, 6 giugno 1976, Pentecoste. Maria Mediatrice di Grazie. Io sono Maria, Mediatrice di Grazie. Pierina, di a tutti i figli che vengono qui a pregare e ripeti il mio invito di madre. Figli, amate il Signore, pregate, pregate, pregate e fate sacrifici per avere la salvezza eterna. Il grande cuore del mio divino figlio Gesù Signore ha dato nelle mie mani il potere delle sue divine grazie per distribuirle alle anime con la luce dello Spirito Santo. Io sono la vostra madre che mi inchino sempre per ricevere le vostre angosce, le vostre suppliche e preghiere, per presentare al Signore mio divino figlio Gesù, che come scambio d'amore dà a questa madre il potere di intervenire dando le sue grazie per spandere sopra il mondo. Io sono Maria, mediatrice di grazie. Pierina, fa conoscere a tutti questo dono regale che ho avuto dal Signore Gesù. Sono madre d'amore e vengo per consolare, per salvare.